ragazzi contro vento per segnare il nuovo tempo. Mi ricordo il momento quando mi ha cambiato dentro. Alla radio ho sentito un sogno che non si è ancora spento, di giustizia e di speranza, di dignità e uguaglianza. Papà si è alzato presto a caricare le valigie in macchina per andare al mare, che oggi si va al mare. E quella bambina coi capelli color rame che mi toccava dentro corde strane, e lei che lo sapeva e io mi vergognavo ma scoprivo. Poi l'amore libero non c'era la proprietà, ma era tanto tempo fa, era tanto tempo fa. Si correva nudi nei prati respirando libertà, ma era tanto tempo fa, così tanto tempo fa. Si cercavano esperienze che piegavano la realtà, si scopriva improvvisamente che non esiste una verità, che ci sono mille milioni di miliardi di stelle, ma siamo soli. Della realtà ormai tanto tempo fa, è difficile da capire, è impossibile da spiegare. C'erano grandi ideali ma anche tanta confusione e troppa ideologia, parole dure.